Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Buon Natale a tutti, puntata speciale del Cacciatore di Libri per il Natale. Non parleremo di un solo libro, ma di tanti libri e soprattutto del rapporto che gli scrittori hanno con la lettura. Che cosa leggono gli scrittori? Quali sono i loro libri preferiti? Che cosa consigliano? Partiamo da uno scrittore spagnolo che ha una libreria incredibile. Lui è Arturo Pérez Reverte, autore di romanzi storici come per esempio l'ultimo Il Giocatore Occulto. E allora, che rapporto ha Pérez Reverte con i libri? Sentiamolo. Pues ahora tengo en mi casa 30.000 libros. Significa que tengo una relación muy estrecha. A casa ho 30.000 libri. Vuol dire che ho un rapporto molto stretto. Ma è una biblioteca viva, non una biblioteca museo di libri polverosi. È una biblioteca che consulto costantemente. È uno strumento di lavoro, ma è anche un modo di vivere. Io credo che una biblioteca sia un modo di vivere. Così come un essere umano si conosce dai suoi amici, credo che un uomo si conosca attraverso la biblioteca che ha. Igual que un ser humano se le conoce por sus amigos, creo que un hombre también, un ser humano también se le conoce por la biblioteca que tiene. E lei cosa legge? Es distinto. Ora già tengo 59 años. Già mi tempo está limitado. Ormai ho 59 anni e il mio tempo è limitato. Non voglio più conoscere nessuno che non conosca già. Ormai rileggo più che leggere. Rileggo soprattutto letteratura greca e latina, alcuni classici spagnoli del 500 e del 600 e alcuni grandi romanzi dell'Ottocento. Dostoevsky, Stendhal, Conrad. Anche Lampedusa, che rileggo molto spesso. E i vantaggi di rileggere qualcosa a 59 anni è che il libro che avevamo letto quando ne avevamo 20 ormai è diventato un libro diverso. Da tempo ho scoperto questa avventura appassionante che è quella di rileggere i libri letti tanto tempo fa. E preferisco rileggere questi libri piuttosto che leggere un qualsiasi romanzo appena uscito in Francia, in Italia o in Spagna. Ci sono ovviamente delle eccezioni, ma sono molto poche. Hay excepciones, por supuesto, pero muy pocas. Da uno scrittore spagnolo a uno scrittore di lingua spagnola, il cileno Luis Sepúlveda, diventato famoso con titoli come Il vecchio che leggeva romanzi d'amore e Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. L'ultimo pubblicato in Italia si intitola Ritratto di gruppo con assenza. Sentiamo Sepúlveda. Io sono un lettore appassionato, no? Sono tantissimo come piacciono. Sono un lettore che legge senza un ordine, no? Mi piace scoprire cose, scoprire nuovi autori. Anche io sono uno che sta felicissimo di questa nuova letteratura che si scrive nei paesi scandinavi, no? Non solamente Larsen, sino tantissimi altri che han cominciato a pubblicare, a essere tradotto in diversi paesi. No? Ma sono un lettore che legge senza un ordine. Mi piace la letteratura che racconta qualcosa, no? Che sta bene scritta, che racconta qualcosa con vigore. No? Se si pensa alla letteratura italiana, bueno, credo che anche un amico mio, però per me, aspetto sempre con una sorte di impazienza un nuovo romanzo di Cacucci, per esempio, no? No. Mi piace tantissimo Arpaia, Bruno Arpaia, un grande scrittore. Anche un altro amico, Camilleri, sempre sto sperando un nuovo romanzo di Camilleri, no? Però, ripeto, sono un lettore senza una disciplina così alfabetica di lettura, no? Leggo di una forma caotica, che è la miglior maniera di sfruttare della lettura. E questo era Luis Sepúlveda. Veniamo ora a un giallista inglese, anzi scozzese per la precisione, Ian Rankin. L'ultimo romanzo pubblicato in Italia è Un colpo perfetto. Ecco il suo rapporto con i libri e soprattutto il suo consiglio di lettura. So many authors and so many books. Ci sono moltissimi autori, moltissimi libri. Let me think. L'ultimo che mi è piaciuto molto è uno che si intitola Un giorno ed è di David Nichols. È incentrato su due personaggi che si conoscono all'Università di Edimburgo. In ogni capitolo vediamo questi due personaggi durante lo stesso giorno, ma un anno dopo, e poi ancora l'anno successivo. È sempre la stessa giornata, ma a distanza di un anno. In questo modo si vedono come cambiano le relazioni a distanza di tempo. Da romanziere, leggendo questo libro, la prima cosa che mi viene in mente è: come mai non ci ho pensato io? È un'idea brillante. Veniamo agli scrittori italiani. Andrea Vitali, uno degli autori italiani più amati, con i suoi romanzi ambientati tutti a Bellano sul lago di Como negli anni 30. Ecco che cosa legge Vitali. Io sto, per questioni diciamo quasi professionali, sto facendo una profonda rilettura di tutto Dürrenmatt in questo periodo, romanzi e soprattutto il teatro. Devo dire che, pur avendolo già letto un sacco di volte, è un autore che offre sempre delle grandissime sorprese, quindi è un autore che mi sento di consigliare non solo i suoi romanzi straordinari definiti gialli, che poi sono romanzi tout court, ma anche e soprattutto il teatro, che è veramente grandioso. È uno dei maestri del noir all'italiana. Parliamo di Massimo Carlotto, che ha firmato la saga dell'Alligatore. Ecco che rapporto ha con i libri. Sono un lettore onnivoro e disorganizzato, nel senso che molto spesso non guardo nemmeno il titolo, l'autore, però mi regolo molto sul consiglio. Per me il passaparola è fondamentale, e quindi da una parte ascolto le recensioni, le leggo eccetera eccetera, e però mi piace anche il consiglio, soprattutto dei librai. Non riesco a dire di no a un libraio, per cui se mi consiglia qualche libro alla fine lo compro. Un libro che consiglieresti al pubblico? Io ne ho uno che proprio, anzi posso farne due. Certo, ne hai facoltà. Allora, il primo è Il potere del cane, Don Winslow, che secondo me è un libro straordinario perché racconta il rapporto tra narcotraffico e governi, e questo è molto importante per capire come funziona il narcotraffico a livello mondiale. E l'altro, che riguarda sempre quattrini russi in Spagna, è il libro di Juan Madrid, Marbella Noir, che è veramente un noir bellissimo, lo consiglio perché è una lettura veramente bella. Da Massimo Carlotto alla scrittrice rivelazione del 2010, Silvia Avallone. La sua opera prima, Acciaio, è stata per settimane in vetta alle classifiche di vendita. Ha vinto il Campiello opera prima ed è arrivata seconda allo Strega, perso solo per un soffio. Ecco allora il consiglio di lettura della Avallone. Io consiglio Ho rubato la pioggia di Elisa Ruotolo, che è uscito per Nottetempo ed è una raccolta di 3 racconti molto belli. Lei è giovane, è un libro d'esordio, è una scrittrice che io sento già come una sorella maggiore. E per chiudere in bellezza, un grande della letteratura internazionale, l'israeliano Amos Oz, un autore impegnato anche in politica, da sempre sostenitore della teoria due popoli, due stati per una convivenza pacifica fra israeliani e palestinesi. Sentiamo da Amos Oz quali sono le sue letture. When I read a book and after 20 or 30 pages... Beh, quando leggo un libro e dopo 20 o 30 pagine ho la sensazione che avrei potuto scriverlo io, allora il libro non è buono. Apprezzo solo i libri che non avrei potuto scrivere. Per esempio? Well, I'll give you an Italian example. My all-time favorite Italian novel is Il Gattopardo. Farò un esempio italiano. Il romanzo italiano in assoluto che preferisco è Il Gattopardo. È un romanzo meraviglioso. In un solo volume rappresenta la vita di un intero mondo. Mi fa viaggiare in un altro mondo e mi sento a casa in quel mondo. È scritto molto bene, ogni frase, ogni parola è giusta. E dopo tutto, la grandezza di un romanzo non è nella trama, la grandezza di un romanzo è nelle frasi. And after all, the greatness of a novel is not in the ideas or in the plot, the greatest of the novel is in the sentences. Anche per questa puntata del Cacciatore di Libri, in versione un po' diversa, insomma, i consigli di lettura dei vari autori che avete sentito è veramente tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ancora un buon Natale da Alessandra Tedesco.